Questo è il suono della Street Life Production. Alba Live, J-Ra qua presenti. Qual è la vostra messa? Qual è la vostra messa? Qual è la vostra messa? Qual è la vostra messa? La nostra. La nostra messa. Qual è la vostra messa? La nostra messa. Qual è la vostra messa? La cicatrice sotto il mio mento è un doppio sorriso. In giro ce ne sono molti, ma pochi fanno cisa, mio avviso. Ho un leggero tono espressivo, specialmente quando bevo vodka liscia e il mio viso è scivoloso come limo. Metafore incomprese, ma credo per il fatto che le vostre menti si sono già arrese. Dita sospese in aria, in giro troppi zombie che mangiano senza badare a spese. Un branco di animali feroci che in realtà sotto il velo lo schema non varia, risultano froci. Adesso braccia tese, vestiti tutti uguali andando in finte chiese. È un'infinita orchestra, cantate davanti a un ventilatore che vi mozza la testa. Finte verità troppo spesso attese, discusse interrotte poi riprese. La corda è tesa e non stupitevi se al giornale non c'è mai una sorpresa. Per ogni singolo frocetto della vostra crew, la nostra messa. Per chi spinge da sotto visto che ora non c'è più, la nostra messa. Per ogni vittima di questo cazzo di sistema, la nostra messa. Per chi è stato pugnalato più volte alla schiena, la nostra messa. Batto cinque a mani fuori dalla terra in mezzo lapidi. Per sti stronzetti ho dosi di vocaboli acidi. Sogno di venire chiuso in un sarcofago. Tu il massimo sogni di aggiustare il motore dentro il cofano. Quelli come me non li clonano, a quelli come te gli organi non donano. Vogliono fare i re ma che i loro nasi ancora colano. Non fanno rap ma cabaret, note che stonano. Mi spronano ad essere diverso, si decorano di caratteri più finti delle tette di Miss Universo. Occhi offuscati dal simbolo del denaro, pronti per averli anche a fottersi il loro amico più caro. Ignaro l'interessato di essere una vittima. Chi mi critica non ha visione del mondo nitida. Ogni mio critico non capisce che non lo cago. Mi chiamano Gera e che è critico stitico. Per ogni singolo frocetto della vostra crew, la nostra messa. Per chi spinge da sotto visto che ora non c'è più, la nostra messa. Per ogni vittima di questo cazzo di sistema, la nostra messa. Per chi è stato pugnalato più volte alla schiena, la nostra messa. Yo, gli occhi si oscurano al calar del sole. Yo, non la luce che c'è può illuminare la via. Se non aspetti in orazioni il tempo ti mangia, non lo capisci? Yo, tutti ci consumiamo come incenso bruciato. La nostra messa.